Mila, 100, 1000, 10.000 volte 1000. Ai ai ai. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, sono le 9:08 e siamo in diretta anche oggi con tutti voi, anche tutti voi, gli amici delle pre-sigle, che potete mandare in audio al 349-238-6666. Chiamateci invece se volete far parte di questo mondo pazzo di uno, nessuno, 100 Milan, ma anche pazzo, ma anche simpatico e informato. La trasgressione. No, adesso mica ci vestiamo come Achille Lauro. 800 24 0024. Lorenzo Lespoli mi guarda e pensa: ciao, questo c'ha un'ossessione per Achille Lauro. No, vabbè, dai, il simbolo della trasgressione in questi giorni è Achille Lauro a Sanremo, no? Allora, siamo qui insieme anche a Miriam Lucchetti e Elisabetta Fusconi, che è un po' scomparsa, non appare in audio, si è vergognata, non lo so, avrà avuto qualche ordine dall'ambasciatore svizzero in Italia di stare silente, di cercare il profilo riservato degli elvetici che nascondono dei segreti, dice, poi magari scoprono dove vivi, i conti che hai, i lingottini d'oro, e allora sei un po' eclissata. Vabbè, chissà. Allora, signori, ovviamente durante il corso della mattinata, anche con i colleghi del giornale radio, se lo ritengono, e qui con le agenzie, vi daremo continue informazioni per il deragliamento che c'è stato del treno alta velocità 9595 questa mattina a Lodi. Ci sono due morti e il prefetto ha detto poteva essere una carneficina, perché chiaramente quando deraglia un treno alta velocità è chiaro che voglio dire, poteva essere davvero una tragedia ancora più grande di quella che già è, visto che ci sono due vittime e diversi feriti. Vi daremo aggiornamenti anche, se volete, sul fatto che questa tragedia comporta dei ritardi inevitabili su tutta la linea, ma parleremo anche di tante altre tematiche con voi. Intanto vai, Alpino. Enthusiasm about the future. Allora, intanto, che cosa mi ha colpito? Questo è un tema che vi preannuncio, io vorrò affrontare prima o poi, magari ne parliamo domani. È una vicenda che è un po' sotto traccia. In Francia in realtà si discute molto di questa situazione, di questa sedicenne che si chiama Mila. È una sedicenne che qualche giorno fa, lei vive a Villefontaine, e come scrive oggi Mattia Feltri sulla Stampa, giustamente dedica la sua rubrica al buongiorno a questa vicenda, scrive Mattia Feltri, questa sedicenne qualche giorno fa si è resa protagonista di un, come dobbiamo definire, un dibattito su Instagram, su uno dei suoi social. Cioè ha iniziato a pubblicare dei messaggi, è una cantante, ha pubblicato alcune storie, eccetera. A un certo punto, siccome è una ragazza molto carina, qualcuno su Instagram le ha chiesto, insomma, ah, che bella che sei, perché non esci con me, eccetera. E la situazione, poco alla volta, è degenerata in una serie di insulti reciproci, immagino, solo che questa ragazza Mila a un certo punto ha dichiarato la propria omosessualità, allora hanno iniziato a insultarla con gli epiteti che potete immaginare, e lei, siccome chi la insultava era di origine, di religione musulmana, ha iniziato a attaccare tutte le religioni compresa la religione musulmana, con dei termini effettivamente molto, molto duri. Il Corano è una religione di haine, il n'y a che de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde, c'est ce que j'en pense, moi, c'est ce que je avete pense, sentito, l'islam, forse una parola, la parola ha accostato la parola, l'islam è una bip, e quindi, insomma, e poi ha usato parole molto più dure, eccetera. Da quel momento questa ragazza riceve minacce di morte, ogni minuto si stima 200 minacce di stupro, questo sui social, hanno dovuto chiudere immagini social, vive sotto scorta, vive in una località ora segreta. E oggi Mattia Feltri scrive: Milà ha 16 anni, vive a Villefontaine, Francia, sogna di fare la cantante, spesso posta su Instagram sue interpretazioni. Succede che una ventina di giorni fa un ragazzo l'approcci, lei lo respinge, lui insiste, ma alcuni muri li separano. Milà è omosessuale, il ragazzo è musulmano, finisce che si dicano parole a cui non c'è rimedio. Spalleggiato dagli amici, lui la infama in quanto lesbica e francese, lei lo infama in quanto islamico e neanche per il suo dio. È il disastro. Il profilo di Milà è travolto di minacce di stupro e di morte a 200 al minuto. Deve smettere di andare a scuola perché nessun istituto le garantisce sicurezza. Ora è sotto protezione, chissà dove. Ma non tutta la Francia è con lei. Il ministro della giustizia ha condannato le minacce, ma ha rimproverato a Milà l'attacco alla libertà di coscienza religiosa. Ségolène Royal, totem della sinistra e del MeToo, ha rifiutato di fare suo l'hashtag Je suis Milà. Intanto che abbonda il Je ne suis pas Milà, cioè non sono Milà. Il portavoce della comunità musulmana ha detto che la ragazza se l'è cercata, classica giustificazione dei peggiori, si è messi così. Nell'Occidente liberale una sedicenne non può uscire di casa per una sua opinione, tanto più sacra quanto più sgradevole. E l'Occidente liberale non insorge, insiste sui distinguo, indugia su un malinteso filo islamismo che rafforza una minoranza violenta e danneggia la maggioranza pacifica, e trascura che Milà è il perfetto simbolo di quello che siamo, liberi di amare e di parlare come vogliamo. Eccoli i confini della nostra civiltà, quelli da difendere senza retrocedere un passo. E l'ho detto con questo tono perentorio perché si capisca che sono d'accordo in toto con Mattia Feltri. Senza retrocedere, ha detto delle cose terribili, è vero, delle cose volgari, se volete, sulla religione musulmana, sulle religioni in generale, volgari. Ma la volgarità non dovrebbe essere, come dire, non dovrebbe portarla ad essere reclusa, protetta e, voglio dire, minacciata di morte. Capito? Ecco. Oh, l'altra cosa che mi ha colpito è che cosa? Sono le scuse di Oliviero Toscani. Allora dai, sono giorni che tiene banco questa dichiarazione che ha fatto Un Giorno da Pecora. Vogliamo risentirla, la questione a chi interessa il ponte che crolla. È un azionista di una società Oliviero della Toscani. Quale la famiglia ha un 30%, ma magari anche lei, se è investito in banca, magari anche lei è un azionista. Beh, insomma, magari non diciamo grazie a Benetton, forse nel caso allora diverso. Anche lei è responsabile della caduta. Ma a chi interessa che caschi un ponte? Ma smettiamo. Beh, insomma, le persone che sono morte, per esempio, gli interessa. No, sì, vabbè, comunque. Sì, mi sembra. Ecco, comunque, questa frase ha inchiodato letteralmente, una frase vergognosa, sicuramente, adesso si dice dal senso fuggita. Oliviero Toscani, a chi interessa che crolli un ponte? Oggi, intervistato da Alessandra Ziniti su Repubblica, Oliviero Toscani inizia così: mi scuso di più. Ho vergogna anche di scusarmi. Sono distrutto umanamente e profondamente addolorato. Ho detto parole infelici. Poi aggiunge: la mia frase è stata estrapolata dal contesto. E ancora, le famiglie delle vittime e Morandi si sono indignate, chiede la giornalista. Richiedo scusa. Ho sempre ammirato, riserbo, la dignità dei parenti delle vittime, la forza con la quale chiedono giustizia. Ricordo bene l'impressione che mi fece la signora Egle Possetti, che spesso li rappresenta, le parole che ha sempre saputo trovare, forti e perfino scandalose nella richiesta di giustizia, ma mai cupamente vendicative. Vorrei averli anch'io dei parenti così, se dovessi finire vittima di una tragedia come quella. Egle Possetti, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie di essere qui. Le parole di Oliviero Toscani dell'intervista di Repubblica credo lei le abbia prese adesso in diretta. Sì, le ho prese adesso perché non ho ancora avuto modo di leggere i giornali oggi. Gliele così, gliele fornisco e le chiedo sì, un commento a caldo. Le ho sentite adesso mentre ero in attesa, ho sentito la sua lettura. Guardi, ovviamente come io ho scritto nel comunicato che abbiamo fatto, troppo spesso questa nostra tragedia è utilizzata anche in modo indecente, no? Come in tutti questi casi ci sono alcune persone che magari la utilizzano a fini propagandistici, come accade sempre. In questo caso non le posso negare che siamo rimasti basiti da questa affermazione, come credo tanti italiani. Sì, Toscani poi ha precisato dicendo volevo dire a chi interessa il crollo del ponte, intendevo dire secondo voi c'è qualcuno che è interessato al crollo di un ponte può trarne un vantaggio? Ecco, credo che sia un po' un'interpretazione tirata per i capelli. Per carità, sicuramente quella frase l'abbiamo sentite tutte, chiaramente non abbiamo sentito tutta l'intervista. Io credo che tutte le persone, ma compresi noi, che a volte ci possiamo far prendere dalla foga, dalla rabbia e da altri sentimenti, prima di intervenire, di parlare, dovremmo pensarci un attimo, perché a volte può capitare a tutti di avere dei momenti di questo tipo. Quindi umanamente lo posso anche comprendere che lui si sia fatto prendere dalla foga. Però quando sei un personaggio della caratura che dovrebbe avere lui, questi momenti qui non dovrebbero capitare. Non dovrebbero capitare. Nel senso che poi lui sa benissimo che questa vicenda, che comunque pur se piaccia o meno è legata alla famiglia Benetton per cui lui ha sempre lavorato, è chiaro che le persone collegano anche un po' la sua figura a questa famiglia, no? Perché il lavoro che lui ha fatto. Sì, anche se lui dice io non mi occupo, cioè non c'entro niente con autostrade, è chiaramente partito un cortocircuito di questo tipo. Ma esatto. Le parole di scusa, di riscusa, del dolore profondo, umano, addolorato, lei. Io ascolti, le scuse devono sempre essere accettate umanamente, no? Noi dobbiamo accettare le scuse. Il problema è che secondo noi, oltre alle scuse, nella vita servono dei fatti, no? Quindi io penso che tutte le persone coinvolte in questa vicenda, più o meno diciamo marginalmente, devono fare qualche passo perché le cose migliorino, no? Quindi lui chiaramente non è parte diretta in causa e quindi ovviamente le scuse sono sicuramente accettate da parte mia. È chiaro che resta il malessere, un po' come si dice in qualche caso, quando offendi una persona e pianti un chiodo, poi puoi togliere il chiodo, ma il buco resta, no? E un po' questa sensazione ogni tanto di avere persone intorno che non capiscano quanto profondo sia il nostro dolore. Noi cerchiamo di superarlo, di andare avanti, di farci forza, di renderlo positivo, no? Per quanto possa essere positivo, un dolore di portare positività, per cercare di fare qualcosa per tutti, no? Perché è un po' quello che stiamo facendo. Perché lei sa benissimo che per i nostri cari, a parte chiedere giustizia, ormai non possiamo fare più nulla. No, ma guardi, sono chiusi in una bara. E quindi un po' cercare di avere un po' più sensibilità. In questo caso tocca a noi, in altri casi tocca ad altre persone. Certo. E quindi noi non si può capire fino in fondo quanto sia pesante questa situazione. Però è chiaro che una frase detta così, pure strapolata, poi magari sicuramente lui voleva intendere altro, non lo metto in dubbio, anche perché se avesse voluto intendere veramente quello, sarebbe da chiedersi se la persona era lucida, no? Quindi sicuramente c'è stato qualche cortocircuito anche nel della sua esposizione, però... però fa male, ecco, lei dice, fa male perché si aggiunge a tutto il resto. Io però a un certo punto di vista poi dobbiamo voltare pagina e andare avanti, no? Quindi noi vogliamo vedere che la situazione delle autostrade migliori, vogliamo vedere che i cittadini abbiano più sicurezza, vogliamo vedere giustizia, il processo che vada avanti. Cioè io farei un passo avanti, no? Sì, sì. Andiamo avanti su cose che hanno un peso veramente importante. Guardi, io credo che il messaggio di Rossella che arriva in diretta e dice un abbraccio, visto che la dignità di questa signora, della signora Egle Possetti, insegna tanto a tutti, sia il messaggio che riassume meglio, le sue parole. E io Egle Possetti la ringrazio, ripeto, rappresenta le vittime del Ponte Morandi. Bella anche quell'immagine di quando uno pianta un chiodo, poi anche se lo toglie il buco rimane, quella frase rimane, quel dolore che si aggiunge al dolore già che avete subito e che continuate a subire per la vicenda dei vostri parenti c'è. Io ringrazio, abbiamo iniziato così stravolgendo un attimo la scaletta, e ringrazio la redazione, insomma, adesso, perché io li cito sempre così, ma insomma Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, in tempo zero siamo riusciti a recuperare il numero e rintracciare Egle Possetti, perché dopo che ho visto questa intervista oggi di Oliviero Toscani che la citava, mi sembrava giusto darle voce. Torniamo sulla questione, l'altra questione che preoccupa certamente, la questione del coronavirus. Ci hanno incuriosito due notizie per cui abbiamo due ospiti. Intanto il membro e portavoce dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, Gabriele Di Girolamo, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi faccia salutare anche, le vicende non sono collegate, ma un imprenditore, il general manager insieme ai fratelli di un'azienda, la gamma di farmaceutici di Civitanova Marche, Alberto Angelini. Buongiorno. Buongiorno Angelini. A voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, intanto... l'allarme lanciato dall'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, Gabriele Di Girolamo. Voi avete detto, voi siete tutti i giorni a contatto con le persone nelle udienze e avete lanciato un allarme, una preoccupazione, ci spieghi lei, sull'idea del coronavirus, cioè? Sì, nel senso che noi facciamo ovviamente molte udienze nel corso della settimana e quindi all'interno dei nostri uffici, però noi con questa, diciamo, con questa preoccupazione abbiamo voluto evidenziare che ci sono delle udienze, specialmente quelle di convalida di espulsione, in cui che si svolgono non in un'aula d'udienza, ma si svolgono in uffici, anche qualche volta all'interno dei centri di permanenza per i rimpatri oppure negli uffici della questura, in cui manca proprio un protocollo di tutela sanitaria. Tenete conto che in questa, ma questo non per il giudice di pace, sia ben chiaro, per tutti quanti i soggetti che sono presenti in quell'udienza, non solo il giudice di pace. C'è il cancelliere, c'è lo stesso destinatario del provvedimento di espulsione, c'è il suo avvocato, c'è l'interprete. Ma questo, scusi, Di Girolamo, vale per tutti, cioè qualsiasi tipo di udienza? Cioè perché adesso? Avete casi conclamati se non quei due poveri turisti allo Spallanzani? No, allora, noi abbiamo preso atto, già perché noi abbiamo un precedente, nel senso che qualche anno fa un nostro collega ha contratto una grave malattia all'interno di questi centri, sì, e ha chiesto, quindi facendo la propria funzione giurisdizionale, quindi sì, lavorando per il Ministero della Giustizia, e ha chiesto un risarcimento per l'attività lavorativa svolta. Ebbene, diciamo, nel comunicato è accennato, arrivando in Corte di Cassazione, i giudici della Corte di Cassazione hanno rigettato la domanda risarcitoria, affermando che il giudice di pace è un volontario. Sì. Ora è chiaro, beh, certo, che venendo fuori volontario, ma fa un servizio fondamentale per la giustizia. È un servizio per gli pubblico italiani. Fondamentale, certo, non si può rifiutare, perché è appena l'espulsione questa volta dalla magistratura di pace, quindi diciamo ha determinati, ovviamente ha determinati, come giusto che sia, obblighi, però a fronte di questi obblighi non ha alcun diritto. Sì. Allora guardi, chiaro... Di Girolamo, aspetti, si fermi un attimo, perché io ho detto non sono collegati, ma forse collegati un po' sono, perché Alberto Angelini, che dirige appunto questa azienda, general manager insieme ai due fratelli, insomma, in questi giorni ha avuto talmente, visto che loro forniscono mascherine e materiali per disinfettare, hanno avuto gli ordini talmente aumentati, credo quadruplicati, per cui vi siete trovati a dover assumere delle persone. Alberto Angelini, so che messa così sembra dire, come dire, si fanno affari su questo rischio, ecco, però il dato di fatto è che questo c'è, no Angelini? Allora, assolutamente, però tengo a precisare, quindi premetto, che questo allarmismo e panico creatosi nella popolazione, anche come sentivo poc'anzi, non è assolutamente giustificato, perché comunque in Italia, come ha ribadito lei, prima i casi sono solo due circoscritti a questi turisti, e comunque c'è da sottolineare che tutte le nostre istituzioni e autorità hanno circoscritto il problema e attivato tutti quei protocolli di sicurezza sanitari che comunque hanno dato una tranquillità per nell'affrontare il problema, quindi sì. Non mi allarmerei così tanto, no, certo. Non toglie, come diceva, e voi media avete un ruolo molto fondamentale in questo, sì. Ciò non toglie, come lei diceva, noi abbiamo questa azienda che distribuisce articoli sanitari, nella fattispecie diverse tipologie di mascherine, che ha avuto un'impennata improvvisa di ordini a partire da una decina di giorni fa. E siamo stati costretti, come accennava, che ad assumere, noi siamo passati, eravamo veramente una piccola azienda, da 4 persone a circa 20 persone nel giro. Questo di... Questo è abbastanza incredibile. Cioè lei stesso dice, da una parte, da imprenditore non può che dire, se gli affari vanno bene, bene, però è un po' un effetto distorto di questo allarme esagerato, no? Che c'è... Assolutamente sì, io le parlo da farmacista, perché prima ancora di essere imprenditore sono farmacista. Sia io che i miei fratelli e tutta la mia famiglia. Come vanno anche in farmacia le mascherine? Esaurite, immagino. Pazzesco, non vi immaginate quello che sta succedendo. Per quello dico che non dobbiamo alimentare questa psicosi che si sta venendo a creare, perché in farmacia, in una media farmacia italiana, stanno entrando dalle 40-60 persone giornaliere a chiedere esclusivamente la mascherina, ma anche nelle piccole sì. province, dove non c'è questo allarme, perché posso capire i grandi centri come Roma, Milano, oppure le richieste che ci pervengono dalle farmacie aeroportuali piuttosto che ferroviarie, ma da una piccola provincia calabrese questo allarmismo della mascherina a mio avviso sembra un po' esagerato. Ma infatti io tornerei per un attimo da Gabriele Di Girolamo, ripeto, portavoce dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, però Di Girolamo, molti dicono, ma allora cosa fare, non so, una cassiera o uno che sta alla cassa di un grande magazzino, di un centro commerciale, cioè tutte le persone che sono a contatto con il pubblico, cosa dovremmo fare? Lei dice ogni azienda dovrebbe provvedere? Guardi, lei sa benissimo che qualche tempo fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha individuato questa emergenza. La scorsa settimana anche il Consiglio dei Ministri ha indicato come emergenza per i prossimi 6 mesi questa situazione, per cui insomma, un minimo di pericolosità in più rispetto alla normalità la constatiamo. Noi abbiamo evidenziato, proprio perché ci sono degli uffici pubblici, quindi dove si svolgono determinate attività, quindi abbiamo fatto richiesta alle attività, alle autorità competenti, come il Ministro della Giustizia e il Ministro della Sanità. Poi è chiaro che all'interno di strutture private si potrebbe attuare un protocollo motu proprio dell'imprenditore. Adesso, dice, sì, lei dice noi ci occupiamo di chiedere al nostro tra virgolette datore di lavoro, che è il Ministero della Giustizia, ecco, questo. Poi è chiaro, io non sono personalmente in grado di dire e di dare indicazioni. Sì. Va bene, io vediamo come si sviluppa la questione. Nel ringraziare Gabriele Di Girolamo, portavoce dell'Associazione Nazionale dei Giudici di Pace, e Alberto Angelini, farmacista, ma anche insieme ai fratelli fondatori di questa gamma di farmaceutici SRL, che a Civitanova Marche è una piccola azienda di 4 dipendenti, sono dovuti trovare a assumere nel giro di pochi giorni varie persone, perché c'è una richiesta esorbitante di mascherine, di materiali per disinfettare, soprattutto mascherine, per fronteggiare questa situazione che in realtà, l'abbiamo detto 1000 volte, cari ascoltatori, non porta a alcuna necessità, non lo dico io, lo dico le autorità sanitarie, a girare con la mascherina. Io poi devo dire una cosa, ripeto, anche oggi venendo a Milano, spostandomi anche ieri in metropolitana, io persone con le mascherine non ne vedo sui vagoni della metropolitana di Milano, non ne vedo, eppure i vagoni sono luoghi di grande affollamento, di grande prossimità, per cui non lo so dove sono anche tutte queste persone che di nascosto entrano in farmacia a dire mi dia una mascherina, cioè, perché io poi non la incrocio a Milano, in Milano ci sono tante persone. Ditemelo voi, 800 24 0024, è apparso Leonardo Lentopede Manera e quindi tra poco ci siamo con lui. 1 nessuno 100 Milan. Giustifica Oliviero Toscani è alla sua altezza, è complice. Toscani, Oliviero, sei un coccodrillo. Oh ragazzi, ma riguardo alla ragazzina, la cantante francese, ma la libertà non è offendere l'altro, la libertà non è quella del musulmano che la offende perché è lesbica, e non è quella di lei di offendere la religione musulmana. La libertà è rispetto, non è insulto. Sì, d'accordo, caro ascoltatore, con la differenza che ora questa ragazza è sotto scorta, vive protetta, riceve minacce di violenza, di stupro, di omicidio a centinaia al minuto, insomma ha la vita distrutta. Non mi risulta che il musulmano, i musulmani che l'abbiano insultata, siano costretti a una vita di questo tipo, ecco. Dopodiché certo, sì, è chiaro che anche lei ha detto delle cose brutte e irrispettose, su questo non c'è dubbio. Però stavamo parlando di questa Mila. Caro Leonardo Manera, conosci la cantante francese Mila? No, non è una cantante, è questa sedicenne che per aver insultato l'Islam... Sì, ho letto. Insomma, ho letto, ma oggi sto in silenzio, guarda. Oggi sto qui un'ora e mezza, ma sto in silenzio, senza parlare. Oggi hai una scintilla negli occhi particolare, non lo so, sarà la febbre, la parainfluenza che sta tornando. Ti vediamo così, scintilloso. Scintilloso. Sarà il coronavirus che si sta insinuando dentro di me, l'avrò preso in metropolitana. Io prendo veramente la metropolitana, non come te. Mascherine. No, oggi sono venuto in macchina, è vero, ma ieri non e l'altro ieri, no, ho detto oggi, ma mi sono corretto. Ieri e l'altro ieri in metropolitana. Sì. E io non vedo mascherine. Io ne ho viste alcune in metropolitana abbandonate per terra sul vagone. Ma dai. Te lo giuro. Davvero? Cioè, che inciviltà, perché uno deve... Non lo so, si vede che qualcuno l'ha messa, poi ha visto che gli altri non l'avevano, poi l'ha buttata per terra. Mamma mia, ieri sono andato anche al Sue Garden, ristorante migliore di Milano, dal mio amico Jelien, quindi cinese, ho fatto una foto. Ah, a proposito, mai visto, ragazzi, grande annuncio, e lui mi ha fatto vedere questa cosa, la campagna Abbraccia un cinese. Ideata da me, peraltro. Ideata da Manera, come io ho detto. Sfruttata qui da Alessandro, come al solito. Siamo alle solite. Allora, cioè... la sigla, il titolo del programma Uno Nessuno 100 Milan l'ha inventato Leonardo Manera. Anche l'idea della sigla, l'ho detto, potremmo utilizzare quella di Pinocchio. Sì, ecco, però non l'hai fatta tu. Però... l'idea della sigla l'ha fatta Max Zoara. L'idea della sigla l'hai ideata tu. L'idea l'hai ideata, è un po' una contraddizione. L'idea l'hai lanciata tu, effettivamente. L'idea Abbraccia un cinese l'hai lanciata tu, ma io l'ho detto, l'ho scritto su Facebook. Come un parassita, è quello che ne trae i vantaggi. Ma che vantaggi ho scritto? Alessandro Parassita. Come mi suggerisce Leonardo Manera, lancio questa grande provocazione. Abbraccia un cinese, sì. Vabbè. Non volevo dire questo. Mi ha fatto vedere una foto che io ho messo su Facebook. Siamo finiti su Weibo, cioè il Twitter come cinese. Si chiama il Twitter Weibo. Weibo. Siamo sul Twitter cinese. E a un certo punto Jelien mi ha detto: ma lo sai che questa tua foto, cioè, mi ha fatto vedere tutti i caratteri, gli ideogrammi cinesi, non capivo niente, cioè, c'era scritto è partita in Italia la campagna Abbraccia un cinese, è stata vista da 7 milioni e mezzo di persone. Io gli ho detto: vabbè, se tanto mi dà tanto, siete un miliardo e rotti, è come se la vedono mia zia, tuo cugino e... in tre. No, sono sempre 7 milioni e mezzo. Vabbè, ma 7 milioni e mezzo in Cina, dai, stanno in una piscina più o meno. Come si chiama questo tuo amico che non si capisce mai? Qual è? Julien o allora si scrive Jian Liang, però insomma, Jian Liang, però tu lo puoi chiamare Julien, Giuliano, Jelien. Julien, come le verdure tagliate alla Julien. Chiamalo come vuoi, lui si gira, non ti preoccupare, va bene. Va bene, hai visto Sanremo? No, perché ieri sera ero altrove. Ho visto quando sono tornato un attimo, ma non ho visto ieri veramente, no. No, anch'io ho visto pochissimo ieri. Va bene, c'è Eugenio da Napoli, sentiamo un po'. Eugenio, buongiorno. Salve, buongiorno a lei, sono Eugenio, chiamo da Napoli e come spiegavo in redazione, in effetti faccio parte del pool della difesa di Gennaro Lametta, che praticamente è il titolare dell'autobus che precipitò sul ponte, sul viadotto Acqualunga di Avellino. Ah, ora, ecco, a me quella è sembrata una strage dimenticata. Sì. È corretto parlare del ponte Morandi e parlarne tanto, sì, e stabilire le varie responsabilità, ma quella strage dove ci sono stati 40 morti, io non ho mai sentito nulla. Pure lì ci sono delle responsabilità incredibili che sono venute fuori anche attraverso perizie e superperizie, delle responsabilità di autostrade che erano palesi, erano lì palpabili. Io sono stato lì su quel ponte per mesi, abbiamo visto cose incredibili. Sì, vogliamo riepilogare giustamente, perché Miriam Lucchetti dalla redazione mi dice forse non tutti ricordano, era il viadotto Acqualunga, era il 28 luglio 2013, mi corregga se c'è l'autostrada, perfetto, 16, perfetto, e nei pressi, certo, di Monteforte Irpino in provincia di Avellino un pullman precipitò da un viadotto provocando 40 vittime, è il più grave, perfetto, incidente stradale in Italia. Insomma. Perfetto, perfetto, perfetto. Ripeto, di quella strage non se ne è mai parlato, non sono mai stati fatti degli approfondimenti, ma non da Radio 24, c'è stato quasi un tabù mediatico. Questo mi ha lasciato sconcertato rispetto poi praticamente al grande e corretto clamore, sì, che è stato fatto. Perché lei dice sono 40 morti anche lì, insomma 40 morti, sì, più o meno, insomma, al Ponte Morandi credo 43, quindi... Sì, ma siamo lì, insomma, voglio dire, non stiamo certo a contare il morto. Il problema è che anche lì sono emerse delle responsabilità, sì, sì, fortissime di società autostrade, ma questo non lo dico io, ma l'hanno detto tre perizie più una superperizia. Sa cosa, Eugenio, ma non voglio per carità fare nessun, dal punto di vista, come dire, dell'impatto, lei si immagina che un ponte proprio che si sbriciola e crolla, come dire, ha un effetto talmente impressionante rispetto alla pur tragedia di un autobus che cade da un viadotto, no? Mi permetta di dissentire, perché lì si è sbriciolato allo stesso modo un intero filare di New Jersey, sì, che non erano assolutamente ancorati al suolo, che avrebbero dovuto svolgere il proprio lavoro, cioè quello di reindirizzare protezione. L'autobus nella carreggiata, e questo avrebbe salvato 40 vite umane, e che, come è emerso dalle perizie fatte più che, oltre che dalla superperizia, quel tipo di collisione era proprio fatta, per, cioè quel tipo di collisione non avrebbe dovuto permettere la caduta del Perché ricordiamo che il suo assistito, se non sbaglio, è stato riconosciuto parzialmente responsabile. No, è stato riconosciuto responsabile in maniera fortissima, anche questo ci ha lasciato molto perplessi, anche perché poi, ripeto, al di là delle responsabilità di società autostrade, anche gli approfondimenti mediatici a volte hanno un valore nella costruzione di un processo e nel convincimento anche di una corte, o anche del convincimento dell'opinione pubblica. E invece qui è passato tutto sotto silenzio. Ma sicuramente lei, cioè, accogliamo il suo, se vuole, e mi fa piacere che lei ci abbia chiamato come ascoltatore, come anche grido di dolore, a dire: ma come mai di questa vicenda invece non si parla? Insomma, ci sono i misteri della comunicazione. A volte certe notizie anche simili, una ha molto più risalto di un'altra, non si capisce bene perché. Sì, effettivamente, insomma, 40 morti, insomma, lo so che è brutto fare la conta, ma proporzionalmente è una vicenda quindi del tutto simile come numero di vittime alla tragedia del Ponte Morandi. Io ripeto, poi non voglio insistere su questo, l'immagine di un ponte intero, cioè di un tratto stradale che collassa, è un qualcosa, come dire, che ha fatto il giro del mondo, perché sembra incredibile, e quindi forse l'impatto anche visivo ha una sua drammaticità che rende la cosa più mediatica, però insomma effettivamente ha anche ragione questo avvocato. Allora, dobbiamo andare al traffico. Ale, vai. 1 nessuno 100 Milan. I just don't know what to do with myself. Dottor Mela, hai citato due volte la redazione e poi hai parlato di ipotetici problemi di Elisabetta Fusconi, cose strane. Cosa stai cercando di dirci e cosa noi dovremmo capire? No, che problemi? Ho detto che Elisabetta Fusconi, hai notato anche tu, Leonardo, non interviene più in onda, forse l'ambasciatore, forse le autorità svizzere l'hanno richiamata all'ordine, non lo so. Gestisci tutto qui in modo abbastanza autarchico. Io gestire Elisabetta Fusconi, la donna più ingestibile del mondo, nessuno può gestire, neanche sua mamma riesce a gestirla. Allora, attenzione, oh mamma mia, ragazzi. Sta entrando il classico Fusconi, perché svegliare il cane con un certo dorme. Piglio. Mamma mia, ragazzi, c'è una falcata. Sì? Sta succedendo qualcosa? Pronto? Sì? Che succede? Non ti sei. Beh, possiamo andare avanti così. Le cuffie non funzionano. Tante volte il malfunzionamento di una cuffia potrebbe veramente salvarci dalla. Sì? Sai che se vengo provocata non posso esimermi. Sì. Allora, prego. Intanto come stai? Ma niente male. Come al solito dimostrate di non saper trattare con le donne. Io non ho detto una parola. Cosa c'entro io? Cioè, io non ho detto una parola. Dimostrate di non saper trattare con le donne. Ma sei maleducato con le donne? Nulla ho detto. Una donna va pregata. Andate, vado via. Ciao. Dovete con veemenza. Hai mandato via Leonardo Valera. Un gesto clamoroso. Leonardo torna qui. Non ce l'avevo. È colpa mia. Sai che alla fine vengo qua per cantargliela ad Alino Milan. Andato, ha chiuso detto la porta. Detto questo, non sapete trattare con le donne vanno pregate. Ancora non vanno, sapete. Ma sì, è un po' così. Poi mi avete distratto dall'articolo del giorno, che era quello che mi stava interessando più di tutti, ovvero che McDonald's e Nutella distribuirà un panino alla Nutella. La trovo una cosa genialissima. Leonardo, puoi rientrare per cortesia? No, dai, Leo, ti prego, come se fossi una donna. Rientra. Ti chiediamo con veemenza di tornare qua al tuo posto. Va bene, tutto a posto? Non ti hanno richiamato all'ordine l'ambasciatore svizzero? No, è tutto tranquillo. Banalmente mi stavo facendo i fatti miei, come giusto che sia. Leggo giornali, è quello per cui vengo pagata. Allora, incredibilmente siamo riusciti a recuperare, non posso dire per i capelli, Leonardo Manera. È qui. Ricominciamo, no, iniziamo sui capelli. Ciao. Elisabetta, vuoi dire un'ultima? No, Leo, no, Leo, ti vogliamo bene, no, dai. No, sta riuscendo, è incredibile. Ma è l'uomo più permaloso oggi, del mondo. Oggi non è giornata per Leo, oggi è così. Ma l'avevo capito, sai da cosa? Si è presentato con la mezza brioche, quella che di solito mangia al bar Jimmy. Invece è entrato in redazione borbottando, mangiucchiando, e l'ha lasciata lì sul primo tavolo, guarda, trovato a caso. Allora, cui... adesso forse per la terza volta, dai, per favore, Leo, ecco, dai, entra in studio. Adesso giuro in giurella, io non dico più niente, ma ti stimiamo tantissimo. E io vado, Leo, e ti lascio nella tua intimità. Vuoi, Elisabetta, dire un'ultima cosa a Leonardo? Prima ma Leonardo sa che lo circondiamo di affetto e stima. Anche vabbè, l'ironia ci vabbè mettiamo. No, no, ironia sprezzante. Va bene, torna a lavorare, Baba. Vai, Leonardo, grazie per essere rientrato. Hai abbandonato lo studio due volte, ma... dai. Allora, avete parlato all'inizio di Toscani, della sua dichiarazione. A chi interessa se crolla un ponte, ha detto, anche se poi si è scusato. Ma Oliviero Toscani non arriva a questa dichiarazione come un fulmine a ciel sereno. È nella scia di tutte quelle persone che ormai hanno sdoganato qualsiasi tipo di linguaggio, qualsiasi tipo di affermazione in nome della libertà di espressione senza paletti. Ritenendosi, senza che nessuno peraltro abbia dato loro questo titolo, dei guru, fanno, disfano, pontificano con l'unico obiettivo di creare scalpore con le loro affermazioni controcorrente. E però non sono affermazioni controcorrente, a volte sono solo dichiarazioni stupide che non hanno ragion d'essere. Io a tutte queste persone proporrei la quarantena, altro che coronavirus. Le si mette in quarantena a riflettere su quello che dicono, infischiandosene del dolore altrui e delle conseguenze che provocano. Lo fanno con l'unico fine di avere ancora maggiore visibilità, qualora non ne avessero già abbastanza. Io credo che Toscani, dopo un'affermazione così, dovrebbe un po' riflettere, magari sì, essere messo un po' in quarantena. Al limite, in certi casi, un limite appunto alla libertà di espressione non sarebbe neanche male. Per tutti i famosi diventati tali in base a qualcosa di importante che hanno fatto, proporrei un bonus. Per esempio, hai fatto delle foto per campagne pubblicitarie diventate importanti? Allora ti diamo un bonus, che so, di 10 stupidaggini da dire, sapendo che stupidaggini sono. Poi ogni volta che ne aggiungi un'altra, vai in quarantena, anche senza limitazioni di libertà, ma con l'impossibilità per un po' di comunicare alle persone il tuo pensiero. Invece no. La visibilità ormai passa anche e soprattutto attraverso le dichiarazioni controcorrente, altrimenti pare di essere buonisti. Meglio un buonista, secondo me, perfino un finto buonista, di uno che dice cretinate che passa come un carro armato sul dolore delle persone. Ma io sono disposto anche a sopportare su di me delle penitenze pur di non sentire più queste affermazioni. Promettetemi di non farli sentire più e io sono disposto, per esempio, ad andare a una riunione di Naziskin e dire a me i pelati piacciono solo per fare il sugo. Oppure a presentarmi tutte le mattine qui in radio vestito come Achille Lauro a Sanremo. Oh. E per finire, massima punizione, ad ascoltare senza soluzione continuità la sigla della borsa a Radio 24 per un giorno intero. Tutto pur di non sentire più certe stupidaggini. Grazie, ho finito. Va bene, grazie. Va bene. Caro Leonardo, ma come mai sei uscito? Cioè, sei da quando in qua sei anche permaloso? No, mi dispiace essere sempre trattato male. Ecco, stamattina, tra l'altro, stamattina sarei rimasto molto volentieri a letto, perché... Come mai? Ma le lenzuole erano belle tiepide, c'era il tepore giusto nel mio letto stamattina. Veramente mi sono alzato a fatica. A fatica, vabbè. Contro voglia. Vabbè. Avrei potuto anche fare la trasmissione da casa oggi, ma siccome poi nel secondo pezzo viene Claudio Penoni, facciamo una cosa insieme. Stai dando la colpa a Claudio Penoni del fatto che sei stato obbligato a venire qui? Sì, un po' sì, perché altrimenti sarei rimasto a casa oggi. Mitica Claudia Penoni, è vero, oggi viene a trovarci nella seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Puoi darci un'anticipazione di quello che farete oppure no? È una sorpresa. Facciamo un pezzo sulla noia matrimoniale. Beh, insomma, riecheggia un po' il mitico cinema polacco. Questa ha delle radici anche culturali, si chiama Ioneschiana. Ioneschiana, da Ionesco? Certo. Va bene. Allora, ci sarà Claudia Penoni insieme a Leonardo Manera, anzi l'ho messa male, insomma, Claudia Penoni ha costretto Leonardo Manera a venire qui in radio perché si è messo agli atti, oggi Leonardo preferiva stare nelle sue morbide e calde lenzuola di casa. Sicuramente sì. Bene, c'è Adele dalla provincia di Piacenza. Adele, buongiorno. Buongiorno a te Alessandro, sì. mi concedo Adele? Il tuo perché... Adele, sai Adele tu? No. Sì, sono io il buono. Sì. Beh, ma Adele però... No, Adele con la B, Adele. Ah, Adele! Io ho letto Adele, ho detto... No, è il classico errore che fanno, no, ma è proprio Abele. Abele, sì. Come Caino e Abele. Beh, esatto. Vai Abele. Esatto. No, avevo chiamato la redazione incuriosito dal tuo commento che non vedi nessuno a Milano con le mascherine. Pochi, pochissimi. Ne vedi pochi. Finiscono tutte direttamente in Cina. Raccontavo la mia esperienza, sono un piccolo imprenditore in un settore che non c'entra nulla con le mascherine, esportiamo profumeria e cosmetica, abbiamo molti clienti in quell'area del mondo e dall'inizio di gennaio hanno cominciato a richiederci mascherine. Questo i cinesi, ma ci sono anche molti italiani che entrano in farmacia e chiedono le mascherine. Io ne ho comprate 10, per esempio. Ne ha comprate 10. Ma ragazzi, ma noi siamo qua a ma cercare non con il lanternino quelli che fanno le robe bizzarre, ce le abbiamo in casa. Cioè, ma perché? Guarda, Alessandro, ti racconto anche questo delle farmacie, non sapendo dove sbattere la testa, perché appunto non è il mio settore di competenza. Ho un amico che lavora come informatore farmaceutico in Lombardia e per la farmacia, e gli ho detto: hai possibilità di mettermi in contatto con qualche fabbricante? Fa: guarda, in farmacia non ce n'è neanche una. Tanto è vero, ho detto, se vuoi ridere, mi hanno consigliato di andare ai vari Brico Center a cercare le mascherine. Quelle sì, per le vernici, insomma, così. Che usano appunto. Fermati qui Abele, perché devo andare al giornale radio. Incredibile. Vabbè, finiamo con questa testimonianza, ma ce l'avevamo in casa, Leonardo Manera, giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da... È ora di riscoprire il fuoco. Progetto Fuoco, 19-22 febbraio, Verona Fiere. 1, nessuno, 100 Milan. Ciao Alessandro, io vado un giorno sì e uno no a pranzo al ristorante cinese. Sono loro che hanno adottato me. Un abbraccio dal tuo omonimo Alessandro di Ostia. Sei grande! Buongiorno, Vanna da Roma. Però non si può proprio sentire, ha una voce stridula questa signora che dall'altra parte della radio è fastidiosa. Ma chi? La nostra Elisabetta Fusconi, di cui tutti ammirano la voce dolcissima. Vedi come a volte gli uomini ne parlano bene anche della voce. Le donne contro le donne, è un classico, uno stereotipo Ciao. Al quale noi ci appiattiamo. Sono Laura da Roma, se non fossi già sposata sposerei volentieri Leonardo Manera. Tanto Laura, il tuo matrimonio come tutti dovrà finire prima o poi. Quando finisce vieni a trovarci qui in Viale Monterosa 91. Sei terribile. Diamo corpo a questa nostra... Scusa. Poi abbiamo... passione. Abbiamo fatto passare sotto traccia la vicenda delle mascherine. Ma hai accusato tutti i giorni Mauro Meazza di speculare sulle mascherine. Sì. Adesso abbiamo scoperto che ieri sei andato in farmacia a comprare 10 mascherine. No, non ieri, già la settimana scorsa. Peggio che peggio. A parte che arriva una richiesta, Manera, mi vendi una mascherina. Ma ragazzi, ma siete impazziti? Ma io gli ho detto durante il giornale radio, ma perché hai comprato le mascherine? Devi fare un pezzo comico sulle mascherine. Ma scusa, non hai visto la foto che ti ho mandato qua in chat? Sì, ma avevi una mascherina. Avevi. Perché sì, ne hai prese 10? Non è che metto 10 una sopra l'altra. Ma perché ne hai prese 10? Perché ne usi una al giorno. Quando il coronavirus arriverà a Milano, che sicuramente arriverà, per i primi giorni sarò munito di mascherina. Vabbè. Passiamo oltre. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan. Dobbiamo parlare un attimo. Volevo introdurre questo argomento prima dell'ospite, ma è abbastanza affine la questione, perché c'è tutta una questione sull'immigrazione, su una polemica, secondo me, assurda. Che devo dire, politicamente ha portato avanti Salvini, soprattutto. questo è un dato di fatto, sulla questione della gestione dei migranti. Allora, il decreto Salvini aveva abbassato da 35 euro, che è la cifra che non viene dato al migrante, l'abbiamo detto mille volte, ma a chi gestisce il centro dove c'è il migrante, da 35 euro aveva portato a 22 euro il massimale da dare. Cosa è successo? Che così i bandi per gestire questi centri sono andati deserti, perché evidentemente con 22 euro nessuno ci sta dentro. Allora il ministro Lamorgese ha deciso di emanare una circolare e aumentare di 3 euro. Ma io dico, al di là della questione politica che ognuno può fare, Salvini ha detto una vergogna, mettono le mani nei portafogli degli italiani, ma se vanno deserti i bandi per gestire queste persone che arrivano, ma cosa dobbiamo fare? Cioè, uno Stato si dovrà preoccupare di dire, beh, dobbiamo trovare il modo, oppure no, apriamo tutto, lasciamo allo sbaraglio, i centri non vengono gestiti, cioè. E quindi che cosa suggerisci? Ha fatto bene, secondo me, il ministro Lamorgese a dire, visto che i bandi sono deserti per questa cifra, aumentiamo un pochino la cifra, se no le cooperative, chi gestisce non ritiene che sia c'è chi ti direbbe è un modo per ricattare lo Stato. Per ricattare lo Stato. E vabbè, tornare alle cifre di prima. Vabbè, ma la questione, no, dico, è affine, perché saluto l'avvocato Pietro Porciani. Buongiorno. Buongiorno. L'avvocato Porciani difende due poliziotti che sono accusati di violenze nei confronti di un cittadino marocchino che più volte è stato sorpreso a spacciare, nell'ultimo arresto credo fosse anche in una situazione di irregolarità, se mi corregga se sbaglio, avvocato, quando è stato pizzicato. L'ultima volta. Sì, l'ultima volta. E perché sono sotto accusa i suoi poliziotti? Credo per un arresto, come dire... Allora, non c'è stato nessun arresto. Il personaggio è un parente di Hamri, che è il terrorista che fece la strage a Berlino, sì, che venne ucciso, poi ucciso dai nostri, a Sesto San Giovanni, certo, dai nostri poliziotti che si difesero dall'aggressione di questo signore a Sesto San Giovanni. Poco tempo dopo la nostra Digos va a fare una perquisizione a casa, in una casa dove abitava l'attuale persona arrestata, e va con l'ausilio di questi due tutori dell'ordine che sono sotto processo adesso, che erano gli unici a volto scoperto, perché quando si fanno le indagini antiterrorismo giustamente tutti vanno col volto coperto, perché sì, si tratta di persone poco per bene. Gli unici due autoscoperto erano i due che sono attualmente sotto processo. Che sono sotto processo per che cosa? Cioè, perché allora, le accuse sono di percosse, violenze, sono lesioni, sì, rapina. Addirittura rapina, perché scusa. Rapina, sì, perché questo signore ha detto che i due gli avrebbero sottratto il cellulare. Ah, ok. Poi che lo avrebbero colpito con la bomboletta spray. Sì, negli occhi. Nel cosiddetto capsicum. Peccato che la bomboletta spray, che è in dotazione alla pattuglia della polizia, viene correttamente restituita al commissariato e quindi data al turno successivo. Diciamo che la bomboletta spray è un po' come un'arma. Sì. Se io la uso, poi la devo consegnare. La devo riconsegnare, la riconsegno usata, non la riconsegno nuova. No. Però, integra, avvocato, queste sono materia, sì, processuale, lei li difenderà, sì, a giudizio. Il tema, qualche giornale l'ha posta così, ma come? C'è uno spacciatore recidivo e adesso sotto processo sono i poliziotti che, sì, in qualche modo... No. Però è vero che sono stati anche sospesi questi due poliziotti? Sono stati sospesi per un anno. Come mai? Cioè, evidentemente perché il tribunale così ha deciso. Certo, no. Sì, il tribunale così ha deciso. Beh, ma sulla base sulla base delle dichiarazioni, sulla base delle dichiarazioni di questo. Questo è una persona che nel momento in cui gli viene chiesto in incidente probatorio dove abiti, lui dice non me lo ricordo. Ma da chi sei? è da mio cugino. E come si chiama tuo cugino? Non me lo ricordo. Ecco, questa è una persona che viene ritenuta attendibile. Sì, però scusi, i traumi che sono stati riscontrati saranno stati verificati, le ecchimosi, le scoriazioni? I traumi sono stati verificati, peccato che lui vada in ospedale diverse ore dopo questo presunto fermo, sì, e poi che c'è stato, ma il fermo non c'è stato. Di fatto i due poliziotti vengono, intervengono, vedono una rissa tra una persona e un altro, questo scappa, l'altra persona viene assistita, gli chiedono cos'è accaduto, lui dice sono stato aggredito da uno, danno la descrizione, i due poliziotti fanno un giro con l'auto, vedono questo, lo caricano in macchina per portarlo a vedere all'auto se era stato lui l'aggressore. Cosa rischiano questi due poliziotti in termini di codice penale? Rischiano diversi anni di carcere e la fine della loro carriera lavorativa. Sì, certo, perché se condannati è chiaro che... Condannati, attenzione, se uno, se un poliziotto, io sono il primo a dirlo, il forte della divisa commette metà di quello che loro hanno fatto, è giusto che siano cacciati dalla... Cioè, quindi lei dice le accuse, è severo quello che hanno fatto, anzi severo anche solo la metà, hanno sbagliato. Però lei dice ma è severo anche un quarto. Anche ripeto, un quarto. Quando hai la divisa devi essere corretto come gli altri, anzi più degli altri. Ma ripeto, i medici legali hanno garantito che l'effetto del capsicum, che è il prodotto che si spruzza, dura 20 minuti. Questo signore va in ospedale e viene visitato dopo 3-4 ore, dal momento in cui lui asserisce che il capsicum gli sarebbe stato spruzzato. Sì, sì. E come tutti sappiamo, se io mento su un dettaglio di questo tipo, verosimilmente mento su tutto il resto. Ma stiamo smontando pezzo per pezzo le accuse che questi due bravi ragazzi hanno. Va bene, avvocato, vedremo. Intanto io la ringrazio. Insomma, ci ha colpito perché questa notizia, in realtà, ecco, poi nel salutare l'avvocato Pietro Porciani, che difende appunto questi due poliziotti accusati di violenze nei confronti di questo cittadino marocchino, è chiaro che molti si sono anche incuriositi sulla prima parte del mio discorso, cioè la questione del come gestire i migranti e quanto lo Stato deve dare per la gestione dei migranti. E uno mi dice, mi ha scritto, ma così lo fanno per guadagnare? Benedetto Figliuolo, come dire, benvenuto nel mondo. No, voglio benvenuto dire, nel mondo. È chiaro che un conto è lo fanno per lucra. Se uno dice lo fanno lucrando sulla pelle, e ci sono stati casi di centri dove poi danno da mangiare lo schifo ai migranti, cioè gli danno proprio il peggio del peggio per lucrare su quei 2, 3, 4 eurini al giorno. Ma è ovvio che chi gestisce un centro per migranti lo fa per guadagnare, dà anche dei posti di lavoro allo psicologo, al medico, all'infermiere. Vabbè, non devi reagire male con l'ascoltatore che in modo innocente ti ha posto una domanda. Non è innocente, era. E allora lo dicano che lo fanno per guadagnare. Sì, lo fanno per. Allora un imprenditore lo dica! Che fa un'azienda per guadagnare e mettere via dei soldi, lo dica, lo ammetta, e grazie al secchio, sì, lo fa per quello, dà anche dei posti di lavoro. Cos'è, un congiuntivo ottativo? Grazie al secchio, lo dica. Lo dica, secondo me è un congiuntivo ottativo, ma non sono sicuro. Non lo so, sfida Luchetti, congiuntivo ottativo, va bene, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Allora, tocca a noi. E io con questo sguardo dell'alpino, l'alpino fa dei cenni così proprio... dei piccoli cenni del capo, sposta il capo di 0,2 gradi, peraltro, così. E vuol dire parti tu, questo è il massimo del cenno che Tra l'altro mi dicono che anno dopo anno i cenni diminuiscono sempre di più come intensità. Cioè, con un tocco di sopracciglio tu devi capire cosa devi fare. È l'alpino in regia, signori. Oh, con grande piacere saluto l'avvocato Bianconi, avvocato Maurizio Bianconi, eccoci qua. Buongiorno a te. È bello, e al tuo amico. Buongiorno al mio amico. È bello perché Maurizio Bianconi noi lo chiamiamo e poi lui può dire quello che vuole, cioè è qua con noi in amicizia. Allora, intanto ti devo chiedere questa cosa, visto che tanto ne abbiamo già parlato, la questione dei vitalizi, così la smarchiamo. Tu da ex parlamentare e da avvocato sapevi e sai già come andrà a finire, come sappiamo tutti, come sappiamo tutti. Al di là del merito, prima o poi la Corte Costituzionale ci mette le mani, ce l'ha già messo, quindi non c'è problema. Ci penserà il Senato di già, senza la Corte Costituzionale ci penseranno con l'organo. Il Senato è come il Tribunale di primo grado, non è una cosa eccezionale. La giustizia interna, che si chiama con una parola greca autodichia, di origine greca, cioè giustizia su propria, aveva fatto il suo tribunale e al Senato hanno deciso già così. Alla Camera ancora sono sospesi, ma sono talmente palesi le violazioni delle norme. Io non parlo del merito, parlo proprio delle leggi che prima o poi ci rimettono le mani. Questo è tutto strumentale. No, ma devo dire che anche politicamente c'è il 5 Stelle che dice andiamo in piazza, cioè si preparano a sanno già che perderanno, da questo però punto di vista. Rilanciano la loro battaglia su questo, la loro visibilità anche su questo. Ma è strumentale, cioè l'hanno tolti strumentalmente e ci hanno fatto casino, confidando di rifare casino quando verranno le sentenze. Quindi è tutta una bandiera politica. Sì. Sì. Al di là del però siccome la politica conta anche l'immagine, sicuramente in questo riacquisiranno un po' quella vecchia anima barricadera che forse ha portato qualche voto E non ci crede più nessuno. Ormai la frittata mi pare che l'abbiano un po' fatta, però la è innegabile che sia una delle loro bandiere questa. Sì, è certo. Sotto il profilo del significato politico, un popolo maturo rimanda a quel paese, perché sotto il profilo politico il significato è pari allo zero. Tra l'altro la portata avanti di Maio, di cui l'altro giorno tu hai detto hai magnificato le lodi. Dal ministro ha detto che chiamerà il popolo, lo chiama lui il popolo. Cioè, ci sono dei limiti così evidenti che quasi diventa quasi, diciamo così, inutile parlarne. Ormai si è detto un po' tutto. Han fatto, torneranno indietro, si sgonfieranno, e comunque è un passaggio che questa democrazia così in crisi doveva però ecco, io vorrei chiedere avvocato Bianconi una cosa sulla prescrizione. Ecco, dai, un tema che non abbiamo mai qua affrontato. Guarda, io trovo insopportabile, e non lo dice nessuno, questo mi dispiace, il fatto che oggi la Lega e Salvini gridino alla eccessiva durata del processo, quando la Lega e Salvini sono i primi responsabili dell'abolizione della prescrizione, perché l'hanno votata loro, non è che l'ha votata Gesù o la Madonna o lo Spirito Santo. Però scusa, da avvocato è una politica. Ti chiedo questo, cioè la prescrizione nasce come una garanzia per le persone, che è un processo che non si può stare a vita sotto processo, no? Quindi siamo tutti d'accordo che ha anche un senso da questo punto di vista. Però è un'impostazione sbagliata. No, lo so, però scusa, dimmi quanti avvocati puntano al buttare in là la palla in attesa della prescrizione, dai. Cioè, allora, stai attento bene. E qui però ho bisogno di un minuto. Sì. La prescrizione di cui parlate voi non è quella prevista dal nostro codice. Il nostro codice prevede la prescrizione del reato, non del processo. Mm-hmm. Cioè, se te rubi nel 1975 e ti scoprono oggi e incominciano il processo oggi, ti dicono: guarda, il processo non lo posso incominciare perché il reato è prescritto in 7 anni e mezzo. Se ti scoprivo entro il 1982 6 mesi, bene, l'ho scoperto dopo, sei libero. Questa è la prescrizione che c'è in Italia. Allora, la prescrizione del reato, poi incomincia il processo, ma il processo incomincia non, e la prescrizione non conta non dall'inizio del processo, ma dall'inizio del reato. Vabbè, certo. Quindi l'unica cosa è sì, ma però non è mettiamo così. Che io ti becco, e mettiamo che compi un reato o un possibile allora, reato, e ti becco subito e inizia. Intanto Bonafede doveva fare una cosa: ripristinare il concetto di prescrizione del reato e il concetto processuale di prescrizione del processo. Una volta che avesse fatto questo, ma siccome è un ignorante, non lo sa e quindi non lo ha fatto o non gli interessava, si deve entrare dentro il processo. Dentro il processo, come si può dire, quello che passa per vulgata, sì, ed è frutto di vera ignoranza, è che la prescrizione possa essere gestita dalla difesa. Non è così. Perché ogni scusa, ogni anfratto, ogni ambulato nel quale si infila la difesa, vige il principio della interruzione della prescrizione. Sì, sì. Cioè, se il mio testimone non viene e si rinvia di 6 mesi, quei 6 mesi non si contentano per la prescrizione. Se io chiedo un incidente probatorio per me che non è previsto al PSM, quel tempo lì non si conta. Scusa, però avvocato, ma quanti processi a persone potenti, non li cito, allora, sono durati e poi il reato è andato in prescrizione nel frattempo? Sono durati per il semplice fatto che le persone potenti non raggiungono il meccanismo del processo, ma raggiungono il meccanismo dei giudicanti. Dei? Non ho capito, raggiungo il meccanismo dei? Dei giudicanti. Mi fermo qui, perché il meccanismo del processo non consente alla difesa di guadagnare un minuto. Hai capito come funziona? Sì. Perché il processo va in là? Perché si ottiene il rinvio? Perché il giudice viene trasferito da un'altra parte? Sì. Cioè tu dici, guardasse, i giudici invece di accusare gli avvocati guardassero in casa loro, questo ci stai dicendo? O sì in casa loro. Ma per esempio anche il processo in sé non allunga di un minuto la questione. Ma per esempio neanche portare una serie innumerevole di testimoni non allunga i tempi. Il giudice ha il potere dell'abbreviazione della lista. Ho capito. Se però uno porta 10 testimoni. Il giudice dice: scusa, se fosse così ci sarebbero, come dire, allora stai dicendo o i magistrati non sanno fare il loro lavoro. Ma i magistrati sono per la maggior parte bravi, ma per la maggior parte sono anche dei burocrati impiegati che non vogliono bene. Molti sono dei protagonisti. Se io ti porto una lista di 10 imputati, di 10 testi, io giudice dico: guarda, perché me ne porta 10? Ne porto 3. Aspetta, ti ricavo. Sì. E lo posso fare. Ho capito, ma allora, visto che molti reati vanno in prescrizione, ci stai dicendo che ci sono... Ma vanno in prescrizione non per la durata del processo, vanno in prescrizione perché la data di prescrizione incomincia ho capito, ma molte volte vanno in prescrizione anche quelli per cui viene beccato, pizzicato il presunto colpevole appena commesso il reato, quindi non è che bene, in quel caso... Questo rivolgetevi ai giudici, ai cancellieri e ai meccanismi. Okay. Non agli avvocati. Vabbè. Ma non lo dico perché sono avvocato, lo dico perché allora qual è la strada? Tu devi pensare che il meccanismo, la strada è la tecnologia. La strada è la tecnologia. Intanto te lo dico. Però la cosa che deve mostrare la testa al toro è che le legislazioni democratiche hanno inciso sulla durata della prescrizione, non sul meccanismo. Sì. Il meccanismo l'ha inventato Rocco ed è un meccanismo tutto statalista, tutto a favore dell'accusa. Quindi il meccanismo della prescrizione non prevede alla difesa la potestà di allungamento. Vabbè, la soluzione è dividere prescrizione del reato dalla prescrizione del processo. processuale. E la prescrizione processuale in 7 anni e mezzo un processo deve finire. Sì. In 15 anni un processo deve finire. Okay. E quindi far partire la prescrizione non da quando è commesso il reato, il presunto reato, ma da quando inizia il processo. Ora, se pensi che il 60% dei procedimenti iniziati vanno in prescrizione nella fase delle indagini preliminari, è perché vengono beccati tardi, insomma, sì. Sono anche inutili a quel punto. Esatto. Sì, ma infatti quanti procedimenti si iniziano sapendo già che vanno in prescrizione? E quello è tempo perso. Se funzionasse questo meccanismo, che funziona in tutto il mondo, in tutto il mondo la prescrizione processuale è distinta dalla prescrizione fattuale. E questo in Italia non lo dice nessuno. Va bene. Perché si fa un po' il discorso che avete, ma l'avvocati, ma qui, ma la... basterebbe questa semplice variazione tecnica per assicurare a ciascuno il suo processo. Con allora, tutti gli altri. Io devo, per esempio... Sì. Sono convinto di quello che dice Bianconi. Sì, mi sembra su una questo cosa sì, la divisione, cioè se si dicesse la prescrizione parte non da quando hai commesso il reato, che se io ti pizzico 10 anni dopo e inizio con le indagini preliminari, hai già tu, come dire, tu che hai forse commesso questo reato godi già di 10 anni di prescrizione. Invece se parte dal momento in cui iniziano le indagini, allora è diverso. Va bene, grazie avvocato, ciao, ci vediamo presto, ci sentiamo presto. Ciao, Maurizio, ciao. Il congiuntivo ottativo esprime il desiderio e l'augurio che si compia o non si compia un determinato processo verbale. Giusto, detto bene. Quindi lo dica. Lo dica, è un congiuntivo ottativo. Facciamo cultura qui a Radio 24, non come Guido Scotti, il responsabile dei programmi, che qui in regia ci controlla. Vabbè. Tra un attimo, io lo invidio, dopo, Guido Scotti. Dopo. Mamma, come invidio Guido Scotti? Sì. Ma è perché l'uomo... è venuto qui al posto di Mauro Meazza? Lo invidi perché? Perché è l'uomo più risolto che conosco in vita mia. Sì, secondo me è perché ha i capelli tanti quanto te, ma lui è più bello. Ma non è sereno, una persona serena, felice, sposato, con la moglie che non è qui, vabbè. No, borsa subito, poi faremo un collegamento con la nostra Maria Luisa Pezzali dal luogo dove c'è stato il deragliamento del treno. 1, nessuno, 100 Milan. La prescrizione fa comodo solo a chi ha i soldi e può pagare gli avvocati all'infinito. Ma ragazzi, il vero capolavoro l'ha fatto Grillo, che ha creato un movimento, i 5 Stelle, mi ha mandati al massacro e ha fatto resuscitare il PD, dai. Quell'uomo lì ha sempre lavorato per il PD, è Grillo lì il burattinaio, c'ha lui in mano i fili. Allora, eccoci qua, sono le 10:37 minuti. Intanto, caro Leonardo, adesso è nata una diatriba linguistica, perché qualcuno dice che non sia il congiuntivo ottativo, ma il congiuntivo esortativo. Adesso, Mina Lucchetti, non alzare gli occhi al cielo, qua siamo tutto per la precisione, c'è una sfida Lucchetti in corso, verifica, per favore. Leonardo Manera, lo sguardo vuoto, no, non ha fatto una faccia, come dire... In effetti può essere che abbiano ragione gli ascoltatori. Allora, eccoci qua, è venuta a trovarci Claudia Penoni. Buongiorno a tutti. Ecco, sei stata annunciata prima di gran malavoglia da Leonardo Manera. Me l'hanno detto, sì. Perché sono dovuto venire qui a causa sua, sarei rimasto volentieri a casa a fare la trasmissione con l'app, invece sapendo che oggi sarebbe venuta lei, ho dovuto prendere la metropolitana e giungere. No, nota la gentilezza di Manera, tu lo conosci molto bene. Sì, lo conosco, posso dire, ma nessuno può dire di conoscerlo davvero profondamente, secondo me, perché è un uomo che si cela. Però insomma conosco diversi lati, la galanteria soprattutto, certo, è sempre stato un signore, un gentleman, un vero gentleman. Ecco, tu per esempio, visto che si parla è già la terza volta che abbandono lo studio oggi, dai Leonardo, ma sei scherzando. Proprio c'hai la coda di paglia, mamma mia. Ma vogliamo parlare della permalosità di quest'uomo, Claudia? Beh, sarà una punta, un filino permaloso, però è molto sincero. Io ho sempre apprezzato enormemente la sua sincerità. Però un filino permaloso, un filino, tu confermi? Ma proprio appena. Dai, non... allora. Avremo una data insieme, uno spettacolo insieme al Teatro di Fiorenzuola. Va presentato così, perché Claudia Penoni ha detto, sì, ma ricordo che di recente aveva lui, Leonardo, una serata a Castel San Giovanni, l'ha invitato un prete. No, non è che l'ha invitato un prete, è che lui ha evitato accuratamente di andare all'oratorio di Castel San Giovanni, dove lo attendeva invece il prete. Questo prete. Beh, sì. Però, siccome è sempre provincia di Piacenza, dove io abito, un sacco di amici mi hanno detto, allora ha parlato di Castel San Giovanni, mi raccomando, parlate anche di questa data che farete insieme a Fiorenzuola. Allora dici tu, perché lui non sa mai le date, i giorni e i teatri. È avanti, è molto in anticipo, siccome però sono io qui oggi, ne approfitto, è il 7 di marzo, il giorno prima della festa di Noi Signore, ed è il Teatro Verdi di Fiorenzuola. A che ora, Leo? Sarà alle 21, sono sempre alle 21. 21 e 15, però se arrivano alle 21 va bene, si bevono un caffè, quindi va bene uguale. Va bene, va bene. Il 7 marzo dunque a Fiorenzuola. Tu guardi Sanremo, Claudia? Allora, ne ho visto un frammento due sere fa, perché ero a casa da mia madre, che sta a Torino. Sì. Lei, lì non ho Sky, per cui ho dovuto adattarmi. Dopo ho visto un po' di Fiorello, poi so che c'era un film da un'altra parte e attratta dal film mi sono assentata. Però mia madre ogni 10 minuti veniva ad aggiornarmi, per cui io nell'altra stanza ho saputo delle cose, insomma, di riferimento dalla mamma. Ci chiedono mai Kripstak? Kripstak, la povera Kripstak. Ci arriva, c'era un messaggio, rispondete voi, insomma. Sì, quando facevamo il polacco era Kripstak e Petrektak. Esatto. Allora, caro Leonardo, il congiuntivo esortativo è il congiuntivo usato in proposizioni indipendenti per esprimere un ordine. Se ne vada immediatamente, non era rivolto a te, che poi dopo ti offendi. Se ne vada immediatamente. Oppure un'esortazione, sia buono, mi dia una mano. Congiuntivo ottativo invece? È quello di prima. Lo dicano. Esprime un desiderio. L'ottativo esprime il desiderio, tipo volesse il cielo che... Allora è sbagliato, insomma, è esortativo. Oddio, sbaglio. Secondo me lo dicano è a cavallo fra l'esortativo e l'ottativo. No, esortativo. Adesso c'è Ma Claudia, è anche un desiderio. Fortunatamente Claudia Penoni, che è laureata in lettere, ci può... Certo. No, non sei laureata in lettere. Secondo me Leo ha quasi sempre ragione. Quasi. No, visto come butta stamattina è meglio dargli ragione. Se lo prende, esce di nuovo, va via dallo studio, deve fare una roba per insieme. Per me lo dicano è a metà, appunto, tra l'ottativo e l'esortativo. Sì, e quindi è un congiuntivo... No, non puoi farla crasi, no. Ti piace crasi tra esortativo, perché finisce tutto contativo e quindi non si può fare niente. Va bene, insomma. Ci hanno chiesto anche, però tu Leonardo non hai visto ieri Sanremo, tu Claudia l'hai visto l'altro ieri, ma non ieri, ci chiedono, ma di Sabrina Salerno ne vogliamo parlare? Sì, ho visto le foto. Ho visto che, no, io l'ho vista, si è impigliato il tacco nella scala quando stava per scendere. Devo dire, insomma, una donna bellissima, come direbbe Amadeus. Come direbbe Amadeus, una donna bellissima. Dunque, io sai che tanti anni fa, sì, forse fine anni 80, ecco, fine anni 80, mi avevano contattato per fare su un giornale di gossip il finto fidanzato di Sabrina Salerno, con un servizio fotografico in cui io avrei dovuto fare, presentato come vero, ma il finto fidanzato di Sabrina Salerno. Amarezza terribile. La cosa interessante è che la Sabrina Salerno che avrebbe dovuto essere con me nelle foto non era la Sabrina Salerno, ma una sosia di Sabrina Salerno. Cioè lei non si è neanche prestata a far finta. Ma ragazzi, Claudia, ma cosa è una cosa che si trasmette grande amarezza. Questo servizio sarebbe stato presentato come ecco il nuovo fidanzato di Sabrina ma Salerno. Ma lei non era non lei era vero e lei non era... Ma era scusa, tutto finto. Ma se lei non era lei era vista di spalle. Allora era una sosia. Beh, se è passata era molto simile, era una sosia. Sì, ma io poi non l'ho fatto. Tutto questo per quanti denari? Non ricordo più, però mi ricordo che io rifiutai questa cosa. Anche perché era una truffa, cioè più che proprio. Ma sui giornali di gossip quante cose finte ci sono, non sarebbe una novità. Allora, posso dire una cosa banale? Come no? Così per avvicinarmi al festival che sto seguendo poco. Avete una redazione bellissima qui. Sì, è vero, a parte Lorenzo Nespoli, che il resto, insomma. No, io da signora dico, sono tutti molto molto belli, molto belli. Molto belli. Sì, quindi Lorenzo Nespoli anche è definito il manzo. Due ragazze bellissime, due signori bellissimi. Allora, tra poco sentiremo Claudia Penoni con Leonardo Manera, ma oggi è un giorno un po' particolare, inutile negarlo, perché questa tragedia che c'è stata questa mattina ha un po' sconvolto anche il lavoro redazionale. Allora, la nostra Maria Luisa Pezzali è sul luogo dove è deragliato il Frecciarossa. Maria Luisa, eccoci, buongiorno. Buongiorno Alessandro, un saluto allora, anche agli ascoltatori. Dici quello che vedi e quello che si sa delle possibili cause a questo punto di questo deragliamento. Allora, io in questo momento mi trovo a pochi metri dai vagoni del treno che sono deragliati, il luogo esatto è Ospedaletti Lodigiano, il tratto in cui è avvenuto il deragliamento è un tratto rettilineo in mezzo alla campagna, è stato anche piuttosto difficoltoso per tutti i colleghi prima di soccorso anche arrivare nel punto esatto. Per quanto riguarda le cause è molto prematuro parlarne, è stato precisato, sottolineato anche dal prefetto di Lodi Cardona, molto prematuro. Sono ancora in corso in questi minuti tutti gli accertamenti da parte della Polfer, dei vigili del fuoco. Ovviamente in questi casi, come successe anche, ricorderete, con il disastro di Pioltello, a finire sotto accusa, perlomeno sotto i riflettori, è la manutenzione. Quello che si sa è che questa notte era stato fatto un intervento di manutenzione che aveva interessato l'azionamento dello scambio, non i binari. Quindi in relazione proprio a questo particolare sono in corso tutti gli accertamenti. Sì. Il bilancio per quanto riguarda la tragedia, lo sappiamo purtroppo, è di 2 morti, sono i 2 macchinisti di 51 e 59 anni, i loro corpi sono stati sbalzati a 500 metri di distanza da dove purtroppo, dal punto in cui purtroppo si è fermata la corsa del treno, i vagoni senza controllo hanno percorso 1 chilometro circa rispetto al punto esatto del deragliamento, 31 feriti, 2 in codice giallo e sono 2 addetti alle ferrovie, gli altri non destano particolari preoccupazioni. Allora, poteva essere, sì, dimmi Alessandro. No, sì, poteva essere una carneficina, questo ha detto. C'erano 28 persone a bordo. C'erano 33 con tutto il personale. Questo esatto. In qualche modo chiaramente era il primo treno, ecco, del mattino. Sì, era partito alle 5.10 dalla stazione centrale e il deragliamento era venuto intorno alle 5.30, lo sappiamo, era diretto verso sud, era diretto a Salerno, quindi questa è la linea dell'alta velocità, il treno in Freccia Rossa 1000 è il modello più avanzato dell'alta velocità di Trenitalia. Il prefetto tra l'altro ha specificato c'era un solo passeggero nella prima vettura, 2 nella seconda, 1 nella terza, e questo ha ovviamente limitato le conseguenze, l'impatto della tragedia. Allora Maria Luisa, grazie. Nel frattempo Maria Luisa Pezzali, immagino la ritroveremo nel giornale radio, ma comunque ci darà tutti gli aggiornamenti nel corso della giornata per questo deragliamento. Buon lavoro e grazie per questo intervento. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Ovviamente l'abbiamo detto, ma tutti i treni sono stati bloccati sulla linea alta velocità. 1 nessuno 100 Milan. Mi annoio, facciamo qualcosa. Laviamo i piatti? No, sono già puliti. E allora? Io quando i piatti sono già puliti li lavo solo con l'acqua, così risparmio il detersivo. Io il detersivo non lo uso mai, neanche quando i piatti sono neanche quando i piatti sono sporchi. Lo tengo da parte finché diventi... Signore, è così. Io il detersivo non lo uso mai. È venuto apposta perché c'era Claudia Penoni. Vabbè, ma io ho tempo, non... Riprendi, Claudia, da prima. E allora? Io quando i piatti sono già puliti li lavo solo con l'acqua, così risparmio il detersivo. Io il detersivo non lo uso mai, neanche quando i piatti sono sporchi. Lo tengo da parte, finché diventa d'epoca, e poi vale di più. Beh, d'altra parte è inutile lavare i piatti, tanto poi si sporcano ancora. Piuttosto, giochiamo a scacchi. Io amo giocare a scacchi, ma solo quando in casa c'è una scacchiera. Beh, io amo bere il latte, ma solo quando in casa c'è una mucca. La mucca è il miglior animale domestico dopo il macaco di Macao. Il macaco di Macao quando caca semi di cacao. Ma come dice il proverbio, meglio un bicchiere di latte oggi che una mucca domani. Una volta ho conosciuto una mucca in crisi di identità. Oh, faceva latte di capra. La mucca è il miglior animale domestico che esista. L'unico problema è raccogliere la cacca quando la porti fuori a farla passeggiata. Io per evitare il problema ho fatto crescere l'erba in salotto. E la mucca la fa lì, così non la devo portare fuori. Così mi tiene anche lontani i ladri. Tanto non ho bisogno del salotto, ho la camera da letto per dormire, mangiare, fare le capriole e fare l'amore. Io quando faccio l'amore, prima bendo il materasso. Non voglio essere spiato dagli acari. Gli acari sono dei guardoni, stanno sempre lì a guardare quando faccio gli amore. Gli acari sono dei pervertiti. Abbiamo due occhi per guardare, due orecchie per sentire. Perché abbiamo solo una bocca? Perché Dio il settimo giorno si è riposato. Se Dio avesse lavorato anche il settimo giorno, ci avrebbe fatto due bocche. Ma con due bocche è meglio. Puoi parlare mentre mangi, puoi parlare a bocca piena. Sì, ma con l'altra bocca. E poi i dentisti guadagnano già abbastanza. È una cosa insopportabile. In ogni città, in ogni quartiere trovi un dentista. Oh, sono dappertutto. E tutti guadagnano già abbastanza. Si vede che la gente ha soldi da buttare con tutti quei denti. Abbiamo troppi denti. Servono solo a far guadagnare i dentisti. Ne bastavano solo due, grossi. Uno sopra, uno sotto. Abbiamo troppi denti che non servono a niente. E solo due occhi. Era meglio avere un terzo occhio anche dietro per evitare i tamponamenti. Insomma, siamo fatti sbagliati. Ci volevano due denti e tre occhi. Io non vado mai dal dentista, neanche quando ho tutti i denti cariati. Meglio avere tutti i denti cariati che regalare soldi a un dentista. Oh, io non regalo soldi a nessuno, neanche a un otorino laringoiatra. Però una volta ho regalato dei soldi a un ortopedico. Vabbè, io una volta ho regalato soldi a un reumatologo. Regalare soldi è facile, la cosa difficile è mangiare 20 kg di carote. Però mangiare carote è necessario! Io tutti i giorni mangio almeno 20 kg di carote, oppure mangio direttamente due conigli. Io odio i conigli, stan lì tutto il giorno a mangiare carote o a spuntare dal cappello dei maghi. Insomma, non fanno niente di utile per la società. Come le foche. Anche le foche non fanno niente di utile per la società. Però almeno le foche se ne stanno in disparte al Polo Nord. Capiscono di essere inutili e vanno al Polo Nord a morire al freddo, non come i dentisti. Quando c'è freddo vado in giro nuda, così lo sento meglio. Eh beh, altrimenti non me ne rendo conto. Quando c'è caldo vado in giro vestito, così lo sento meglio. La cosa che non sopporto è la mezza stagione, non so mai se andare in giro nudo o vestito. E le donne? Oh, ci sono donne che vanno in giro nude anche quando fa caldo. Fanno di tutto pur di farsi notare. Le donne sono esibizioniste, pur di farsi notare a volte rimangono incinte. E poi i bambini piangono, per forza piangono, perché prima di trovare un lavoro devono passare almeno 20 anni e non c'è nessuno che li tutela. Se i bambini piangono è colpa del sindacato. CGL, CISL, UIL. CGL, CISL, UIL. E i dentisti guadagnano già abbastanza e stanno in tutti i quartieri della città. Abbasso i dentisti. Abbasso i conigli. Viva le foche! Claudia Penoni con Leonardo Manera! Questo delirio! Senti, vuoi dire il titolo che hai dato a questo pezzo? Ioneschiana, l'avevi detto prima, insomma, il teatro dell'assurdo, sì, Ionesco. Sì. Tra l'altro c'era in una delle, adesso non so quale opera di Ionesco, proprio la goccia sul secchio, no? Questo non lo so. Sì, sì, te lo posso assicurare. Oh, si è ripreso, come avete fatto? Questo non lo so, un giorno ci dovrà spiegare Leonardo Manera. Che bella voce, è anche brava la compagna di Manera. È anche bella, Roberta ci scrive, no? Visto che almeno siamo in clima di Sanremo, dobbiamo ripeterlo. Sì, bello, bello. Ecco, bello. Poi Anna Maria ha questo messaggio. Oh, ma che pazienza ha Claudia Penoni ad aspettare Leonardo? Infinita. Anzi, adesso puoi dire tutto quello che vuoi, tanto se esce dallo studio abbiamo quasi finito la trasmissione. No, vabbè, no, sono paziente in generale nella vita, quindi anche con Leo quando semmai raramente c'è stato bisogno, però sono una donna paziente. Soprattutto per il mio medico. L'ha detto. Che l'ha vedrò detto. Tra poco. No, no, ma è bello quando. È bello perché voi artisti, che siete sempre artisti. Molto artisti. Beh, insomma, come devo dire? Artigiani. Voi artigiani, che siete sempre molto spesso, Leonardo Manera lo ammette, abituati a esibirvi singolarmente. È bello quando si creano delle sinergie, delle unioni, no? Sì, beh, devo dire la cosa bella con Leo è che ormai, siccome abbiamo lavorato per alcuni anni insieme e ci conosciamo dal 96, è come se si scatenasse subito un film per cui c'ho una roba scritta da lui. Si fa quasi buona la prima perché ormai ci conosciamo, si conosce un po'. Certo, c'ha questi attacchi di ridarola che non mi vengono quasi più ormai. Ah, quasi più, perché invece ci sono stati dei tempi in cui, ma anche durante gli spettacoli è capitato. Una volta è successo, ti ricordi una registrazione proprio di Zelig dal Polacco? Sì. Però una registrazione non vale, insomma, o dal vivo. No, era dal vivo, con il pubblico, 2500 persone. Sì. Entrò anche Claudio Bisio a a calmarlo, a fermarlo, a dirgli qualcosa nell'orecchio, perché era una roba, il pubblico moriva da ridere. Però ora tutti vorranno sapere cosa ti ha detto Claudio Bisio per farti fermare immediatamente. No, non mi ha dato una cosa per non farmi fermare, ma per farmi aumentare, cioè, mi ha fatto un riferimento a un altro personaggio al quale potevo collegarmi. E tu subito lì a quel punto non ti sei ripreso. Quindi più, assolutamente. Però devo dire, è bello che un autore comico come lui rida delle battute che scrive, vuol dire anche che ci perché crede. Sono l'unico sono l'unico che ride delle battute che faccio. Però arriva anche questo dotta spiegazione: i conigli non mangiano carote, sapevate, no? Questo va bene, ci lasciamo con questa, cioè, ci crollano attorno le certezze. Ma io li ho visti però che le mangiavano, si vede che erano conigli strani. Allora, abbiamo già una sfida, Luchetti, per domani: i conigli mangiano le carote? Ma non c'è tempo per dare la risposta oggi, cioè, anch'io direi proprio che mangiano visti, le carote. Li ho visti, tu vabbè. Li hai visti, vabbè. Vabbè. Claudia Penoni, ti ciao ringraziamo per grazie. Essere venuta a trovarci. Leonardo Manera, adesso puoi anche offenderti e uscire, la trasmissione è finita. Domani sto a casa, dai. Domani sto a casa, a domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Uno, nessuno.